you. Questa, devo dire, mi piace particolarmente, la nuova traccia di Nico Stojan, dal nome anche al suo ultimo EP per la label Upon You Records, si chiama Kalehera. Vi ricordo che Altro Verso, che va in onda qui su Onda Rossa, lo trovate anche in internet nel suo sito ufficiale, che è www.altroverso.net, oppure anche tramite Facebook, basta cercare Altro Verso Radio Show, oppure Altro Verso come fanpage, oppure personalmente DJ Misk, ma insomma sempre sui social network, lo trovate anche su Twitter e su MySpace. Insomma, veramente le mani proprio si diramano sempre di più, un po' a tentacolo si muove nella rete proprio questa transmission. Dunque arrivano adesso Cosmic Cowboys con No Treasure, vi andrà nella versione remixata da You and Me. Cosmic Cowboys con questa No Treasure vi andrà nella versione You and Me Remix su Musiche Vince Freund, grande new release in questa prima ora di Altro Verso. Sempre naturalmente vi selezioniamo, anzi vi seleziono le migliori selecte, le migliori tracce, i migliori dischi underground della musica elettronica, e sempre naturalmente in anteprima, visto che sono tutte produzioni in versione promozionale che usciranno nelle prossime settimane, in alcuni casi anche arrivano insomma molto molto presto. Infatti nella web radio altroverso.net potete ascoltarle proprio in anticipo rispetto alla loro uscita ufficiale. Adesso stiamo ascoltando già da qualche secondo il nuovo disco di Evelyn Fink, si chiama Yellow Duck su Inac. La Yellow Duck, l'artista invece è Evelyn Fink su etichetta Enak. Mando un grande saluto anche a Giorgio Superman e alla sua donna Costanza, è stata una bella serata mercoledì scorso a Lettere Caffè, e saluto naturalmente anche tutti i vari partecipanti, tra cui tra i quali ricordo un attimo, aspettate, non mi ricordo, ecco, Simona, Sabina, insomma Lorenzo e i vari insomma che ci sono stati, non ricordo poi chi ho salutato, chi ho conosciuto insomma proprio mercoledì scorso. Comunque ancora un grazie a tutti e tutti. Vado avanti con la musica, adesso vi faccio ascoltare Nick Olivetti con Every Minute of It, versione remixata da Chase Book su Trapeze Limited. Olivetti con Every Minute of It, Chase Book Remix su Trappers Limited Records, sesta novità di questo sabato 17 dicembre in diretta da Onda Rossa, Nino HDJ Misk qui al microfono. Adesso sta entrando Martin Dawson e Glimpse con Wildlife, instrumental version su Left Room Records. sempre all'ascolto di Altro Verso, altri suoni, altra musica elettronica nel sabato notte di Radio Onda Rossa. Ore 23 e 29 in questo istante. Adesso mi fermo per esattamente 2 minuti e mezzo. Ci sono un po' di spottini da ascoltare e poi riprenderemo con la seconda parte di selezioni, novità di Altro Verso. Mi raccomando, non mollate, rimanete sempre qui su Onda Rossa. Ancora una lunga notte insieme allo Acrobax, Capodanno 2012 a sostegno di Radio Onda Rossa. Saranno con noi nella Yard Mamma Marias e Torpedo Sound Machine. Benedetto che ha inventato il letto, armonno non c'è da più bella cosa. Nella Room 70-80-90, Disco Inferno e nel Tunnel le migliori selezioni di musica elettronica. Allora, tutta la notte all'Oa Acrobats a via della Vasca Navale 6 e naturalmente dalla mattina del 31 presidio sotto il carcere di Rebibbia, perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva. '19 Eunice Randall comincia a fare radio. 2011 il martedì autogestito da femministe e lesbiche continua a fare radio. E a volte esce dagli studi. Sisters on Air. Domenica 18 dicembre all'Ula Hop. Ingresso 5 euro con CD in regalo. Sisters on Air. Taiko Nokoe Trio. Francesca Fabris. Elisa Lu. Eli Natali. Video Camille Sterna. Giulia Nania. Elena Paraschevà e Silvia Balossi. Make Art. Lucia Proia, Alessandra Liberato. DJ set Sisterhood is Blooming and Pink Glow. Domenica 18 dicembre dalle ore 18 alle 24 all'Ula Hop, via dei Magistris 91 al Pigneto. Sisters on Air. Acrobax e Attrice Contro presentano Scena Attiva. 16 dicembre, Oltre lo sguardo, immagini e parole di un fotografo di strada. 17 dicembre, Madama Cie, rievocazioni estemporanee di una divisa scoppiata. 18 dicembre, Partigiane della Libertà, donne di resistenza. 16, 17, 18 dicembre, Scena Attiva. Ore 20, apericena. Ore 21, spettacolo. Ingresso a sottoscrizione. Acrobax, via della Vasca Navale 6. Per tutta la notte, senza interruzioni, Altro Verso. È musica pura, al 100% in vinile. We'll be right back. E così siamo rientrati in Selecta di altro verso con questo Werner Riedermayer e la sua Faces su Buena Honda Records. Chi vi parla è sempre Nino HDJ Misk qui dagli studi di Via dei Volsci numero 56, zona San Lorenzo, naturalmente Roma. Trasmettiamo anche anche su internet all'indirizzo ondarossa.info. Vi ricordo anche il sito ufficiale della trasmissione altroverso.net, sito da cui poter riascoltare la trasmissione tramite il podcast oppure ascoltare la web radio online 24 ore su 24 in qualsiasi giorno della settimana. Vi ricordo che per questo sabato notte Altroverso andrà avanti fino alle 6 della mattina con naturalmente tutta questa grande musica elettronica underground. Adesso arriva Martin Selle con Institution, remixato da Ingo Boss su Accent Records. Ottimo Ingo Boss che remixa questa Institution di Martin Selle su Accent Records. Sempre selezioni novità all'interno di Altro Verso, altri suoni, altra musica elettronica. Sono entrati Raikou e Stefan Barth con questa Concat su Polar Records. We'll be right back. Questi sono Ray Q Junior e Stefan Barth con Carte su Polar Records. Altri 15 minuti circa con le selezioni novità, poi dalle ore 24 fino alle 5 della mattina invece in automatico le migliori selecte di Altroverso delle ultime settimane, poi dalle 5 alle 6 Chill Out Zone, la zona per rilassarsi con tutta la musica chill out ed ambient. Ricordo anche che ogni 60 minuti ascolteremo il disco della settimana. Tutto ciò solo qui su Onda Rossa 87.900 in FM. È entrato Maxi Sound System con Make or Break, You Need Want. We'll be right back. Bene, sì, Make or Break per Maxi Sound System su etichetta Need Want Records. Saluto anche Alessandro, ha chiamato proprio adesso, ascoltatore insomma di altro verso. Per questa musica elettronica lui fa pensare alla marcia indietro e insomma ognuno fa i propri pensieri proprio con la musica di altro verso. Comunque una buona serata Alessandro, andiamo avanti con le selezioni di altro verso. Sable Ship con Painting My Future, la label è la BS1. Dire se non veramente grande, grandissima musica, grandissime selezioni qui all'interno di altro verso ogni sabato notte qui sulle frequenze libere e ribelli di Radio Onda Rossa. Basta insomma andare in giro per le varie stazioni ad ascoltare le varie minchiate, passatemi il termine, così, che vi spacciano come chissà che tipo di musica. No, la migliore la trovate qui, la migliore elettronica underground è quella che sicuramente è più all'avanguardia. Se ne fotte proprio di seguire un po' il trend o il momento, insomma, come va il commercio musicale o meno. No, qui siamo liberi di trasmettere quello che ci piace, siamo liberi anche così di farvi ascoltare questi artisti che si muovono nei vari club underground europei e non solo. Era per l'occasione Sable Ship con Painting My Future su BS1 Records. Adesso arriva una grande artista francese, lei si chiama Chloe, è anche particolarmente carina questa brava DJ che fa uscire il suo nuovo lavoro per la B-Pitch Control, si chiama Chatterbox, è la traccia che estraiamo dal suo ultimo lavoro qui, in altro verso, solo grande musica ed è solo musica elettronica. Questa si intitola Chatterbox, artista è Chloe ed incide su B-Pitch Control, la label di Berlino ed esattamente la label creata da Ellen Alien, quindi parliamo di grandi cose, grandi produzioni e grande label. Ultima novità per questa settimana, si tratta di Goodspeed con Astronaut Voices, remixato da Oliver Shores su Astronaut Music.